783. Ribes alla francese. Preparate una soluzione leggera di gomma arabica in polvere sciolta nell'acqua. Prendete su con le dita il ribes crudo nei suoi grappolini, tuffateli uno alla volta nella soluzione e spolverizzateli di zucchero cristallino in polvere, ma non a velo. Disposti poi in un piatto, quel fondo rosso brillantato farà di sé bella mostra fra le frutta di un pranzo e sarà molto gustato dalle signore. Potrete anche tramezzare il ribes rosso col bianco.